Dai, c'è bene Luca, vedrai come c'è bene, uscirai benissimo. Però ho notato una cosa, se Roberto ha l'MB più 4 c'è più, è più spinto di Roberto. Sì, a chi la giovassu? Vai Roberto. Prova uno, due, tre, prova uno, metto quell'altro. Signor radio, micidiale. Sì, sono Roberto, diventa un calendario, si sente il coso cattedrale, da me non si sente perché la radio è più chiara la mia, nel senso che non si sente quel rumore cattedrale mi dà la torta grande, da me non si sente, perché gli ho fatto un gioco a questo microfono. Vieni, se no fate Carlotto, ben giudizio di Roberto questo, perché questo qui è modificato. Fai esperimenti e vedi un po', capito? sono. Ma questa volta avete mangiato un pezzo di panettone. Puzzinoso. Te li mangi? Il panettone questo Roberto ci mangia. E questa la radio ti piace, Mario? Tu già c'hai radio belle. Non hai mai avuto radio brutte. Qualcheduna c'hai qualche microfono che con la tua voce non si adegua molto, però tu hai sempre avuto radio belle, è vero. Non è che ti puoi lamentare più di tanto, è solo che sei un bel casinista, hai avuto i CT, hai avuto 440, hai avuto il ben di Dio. Solamente che ogni tanto ti stancavi e mandavi tutto a quel paese. Sì, per forza, perché ti fanno stancare, capito? E quindi, giustamente, io mancavo parecchi anni dalla frequenza, sono entrato da poco, capito? E io mancavo forse più di te, è vero, perché quando io sono andato via ti ho lasciato pieni frequenza, e sono tornato pieni frequenza, tutto qua. Sì, perché mi hanno convinto, mi dicevano non ci sei rientrato. Capito, avevo altre cose da fare, altro che parlare al baracchino. Cappagatta, anche io avevo altre cose da fare, non è che stavo pensando al baracchino. Se no venivano a rompermi le scatole. Accendi baracchino, accendi baracchino, ci sono già quegli amici, c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro. E vabbè, ho pigliato e l'ho attaccato, là. Gli abbiamo dato una solveratina e via. Sta bene. Ciao. E questo quel piccolino piccolino chi è? La canella Perù. Come piccolino piccolino? Ho sentito una voce piccolina piccolina. Adesso come tu scendi? Che sto facendo bene adesso. Buonasera a tutti, là. Sta facendo un abbastanza male il microfono. Sicuramente. Vabbè, qua un piccolino piccolino ha detto, va bene che sta male, però io sento la voce. Perché la portata l'ho vista, però la modulazione era bassa bassa. Gianni, scappa. Mi vuoi di far sera questa cosa? Qualcosa? Questa modulazione mi vuoi di far sera. Davvero? A mio parere sempre. Ma cosa sta? Svuotano la stazione? va qualche negozio spesso. Ah, cappa, cappa. Però ho visto la fotografia, sembra lunghissima, anche la parte posteriore normalmente è sempre sporca, è pulito pulito. Sì, ma non ti fa vedere il coperchio, sempre quello è il problema. Io gli ho chiesto di far vedere il coperchio, ma la fotografia è grafica, ma si vede un capo. Vabbè, non mi trovo quante graffiate, già si può cominciare, io in officina già ne vostro del sito. Vabbè, fantastico, le faccio anche io, so per questo, non c'è officina. Sono regolabili, va da 1 siete in casa. Però poi invece di questo che ho io, mi già, perché i colpi li piglia un bambino. Non ti credere che sia così semplice, no? È un apparecchio che piglia un bel colpo. Se c'è un altro canale e io mi metto a parlare, quell'altro ti entra e senti un bel imbalame. Io guardo, ti dico, quelli che c'ho non entra nessuno da qui. Non sento più da nessuno. Quindi solo Gio Maria qualche volta quando alza l'auto che attacca, non lo so. Non sento un canale, mazzo, e poi si giro, però sono stabilissimo. Non mi copre nessuno. Poi si giro, non sento più. Ma è cappellato comunque. I soldi sono tuoi e fai ciò che vuoi. No, anche a me piace tantissimo il Galaxy, perché c'è un sacco di strumenti, c'è il coltimetro, è enorme, un sacco di cose, è bello vederti. E tutti che ho sentito parlare bene, soprattutto chi ce l'ha. Perché vuol dire che non hanno mai avuto di meglio. Perché se avrebbero avuto di meglio, visto che ti avrebbero detto, va pazzito. Oh, ma no, ne ha avuto apparecchi, pure ne ha due di Galaxy, proprio perché mi è innamorato, ma adesso che c'è l'apparecchio favoloso. Daniele, di nuovo in comunicazione. Ciao chi sei? Daniele. Avanti. Come mi ascolti? Vedo perché mi dici. Ti ascolto bene. Io sono sulla strada di Udine di verso Sassari. Ciao, ciao. Thank you. praticamente nell'aria siamo di fronte. Anche se sta arrivando a fondo scala qua. Luca, tu sei più forte del normale oggi, cosa hai fatto? Più forte del normale, cosa vuol dire? Cazzo, sei 9 più 20 qua. E sto usando il Milan, non lo so, Robè. Poi siccome l'ho spostato il baracchino, cioè ho cavato il cigliato, l'ho allungato, l'ho messo qua vicino al letto, sopra il comodino ho messo il baracchino. Adesso qua sapete che ho disteso il capo. Ma modifica che ha fatto? No, negativo. Mi ha cambiato solo il finale e basta. Tutto qua. E ti ha messo lo stesso finale o uno un po' più forte? Ah no, uguale, uguale, identico, preciso, spiccicato. No, perché arrivi invece mi ha parlato un po' così meno 9 più 15, certo sei quasi 9 più 20, almeno da questo smicco è mio. E tu ce l'ho stesso 9 più 20 qua. Quasi 9 più 20, sì, ma ci manca poco, 9 18, 9 19. Ma siamo lì, a picchi di positivi anche, Dimmi una cosa, nella zona tua, considerando la parte Claudio, chi arriva meglio, diciamo, dalla parte mia? Tu praticamente sei come Natalino, più o meno. Se parlate insieme non vi capisco né uno né l'altro. Per dire, quelli di fuori, rispetto a quelli, la tua su di chi c'è, quello che c'è giù, a Ottava, con la gente lì, confrontati con quelli. Beh, tu, cioè, non ho capito cosa vuoi dire. Per me, Salvatore, che è a metà strada, diciamo, come posso essere io, di stare da te, c'è Salvatore giù, quello giù della zona dei punti. Chi arriva più forte? Ah, arrivi più forte tu, Rob, ci mancherebbe. Perché Salvatore c'ha un bel segnale lo stesso. Io sto arriva bene, si fa sentire, Si fa sentire, ma arrivi più forte tu, Rob. E ancora come lo prendi tu, quello quando si trova la casa sua, questo laboratorio? Come lo sento lì, Antonio? Sì, però non vicino a te, fallo giù, cos'è, la zona di basso, se questo è un buddy buddy giù in basso. Ma lì non c'è antenna, basso, basso arriva. Perché Cristian, fratello, non volava lì, ma arrivava a 9, 9 e 5. Ma non sarà mai qua, Antonio, giù dal padre? Ma il laboratorio non è appena, dentro casa, Ah, no, io sono parlo dentro casa, come ti arriva lui? C'è con l'antenna grande, la testa. Qua è 9 più 5, arriva Cristian, non volava Cristian, fratello, arrivava a 9 più 5. Comunque, più forte che arrivate c'è Claudio o c'è Maria? Lì siamo, dai, siamo lì, tra Claudio e Giovaria, più o meno siamo, il segnale è quello, dai. Chissà con cosa esce Giovaria, va una bomba, un segnale allucinante. Giovaria esce normale, non esce con il VAR, non usa tanti fatti, esce normale, ma già si fa, ma Giovaria è sempre uscito bene, come Mario Mao. Se c'è Vittorio La Rosa, allora, Vittorio Lato, stesso lì a Pisa. C'è un antennone micidiale, Vittorio ti dovrebbe arrivare meglio di Gio Maria. Anche conto che però io sono più distante di loro. Sì, ma tu più o meno c'è un segnale lì come loro. Più o meno è quello. Sono più distante però. Ehi, la schiaccia un attimo, vediamo, che più o meno di Gio Maria me lo ricordo, vai. Guarda. Sì. Uguale identico, ma Mario, Claudio, uguale. Però magari di radio è più forte la mia. Sì, di radio passi tu, ma sicuramente se vi sono cavolate sento più a te che a lui. Ma quando ce l'hai da bel microfono? A 4 o là? C'è una radio allucinante. Ha cambiato da notte al giorno. Vabbè, quel Milan è da pochi watt, adesso quando gli arriva l'altra radio, che speriamo non ci sia ad adattare il microfono. Se il microfono è a posto, che non c'è a cambiare le connessioni, vabbè, se cambia la connessione non fa niente. Ma l'altra radio è sicuramente superiore, quindi ci sarà ancora meglio. Tutto a posto? Ah, ma capito, dove è stato là? Santiago City, la radio è buona. Giappa, giappa. Come arrivo da te? Come arrivo da te? E più o meno come te la. Cioè, segnale io praticamente, Luigi. No, raga, ma comunque, Claudio, il capo praticamente non è più attucigliato. Ho fatto passare dietro il mobile, praticamente nulla, è in tira, diciamo. Più picchi positivi, te lo stavo per dire. Perché Roberto dice che hanno stato un segnale più forte, infatti mi ha detto cosa hai fatto? Nulla. Quello che ho fatto è che il capo l'ho disteso per terra, bene. E niente, adesso lo lascio così. Non ci credete, ma il capo attorcigliato non si tiene dentro casa, neanche sopra, capito? Si fa una supermissione perché fa simmetrizzatore e ti cambia l'impedenza e quindi ti può creare problemi anche al segnale, capito? Qua si va adesso 9.35, pieno, prima di 32, 33 modulati, adesso sì, 35, adesso segnale di Franco. Gappa, andava. No, comunque Antonio non gli ha fatto niente, gli ha cambiato solo il finale qua e basta, non ha fatto altro. E poi gli ha detto che sta uscendo con 8 watt questo baracchino. Buono, si vede. Esce 5 watt, 6 watt quello di Roberto. Vedete il segnale che c'ha, 2 watt e mezzo sta uscendo con la radio. Appaga, passo dall'Antonio e poi vedrà cosa fare. Sì, ma infatti appena gli arriva l'altra, me la faccio dare quella. E la faccio tirare appena di più, perché è troppo bassa il segnale. Fabio. Dimmi. Ma facendo questa modifica qua, l'apparato, cosa gli dai? Più tensione? Cosa l'ho modificato? Se cioè, hai problemi ai finali, lo sovraccarichi e si rovina più fretta. No, non sovraccarica niente. È più tanto che tu c'è una piccolino, capito? Quindi non bisogna darle più di 5 watt, 4 watt e mezzo, eh? Da 2 e mezzo lo porti a 4 watt e mezzo, 5 già lo sopporta, 3 ampere. Quanti ampere è quello che hai messo a 5 ampere continuo e 7 massimi. No, ma questo non li fa neanche il pelo, perché è freddo l'alimentatore, non scalda neanche. Sì, allora lo portiamo a 7-8 watt col baracchino, almeno quando lo attacchi la senti la differenza, capito? Perché così è 2 watt e mezzo, troppo basso, capito? Già lo sistemiamo anche quello lì. Ah, ma aspettiamo l'altro prima, Claudio, vediamo l'altro, se no lasciamo fare tutto. Se questo è pulito, tranquillo, me la potete usare. Se l'altro più forte, utilizziamo l'altro. Vabbè, ma dico, una modifichetta, quello lì si può anche fare, non c'è problema. Giusto per avere qualcosa di più, cerca di aspettare l'altro, così arrivi. Sono 2,20 euro. K. No, già mi sono arrangiato io, Roberto, l'atto che ero in più, faccio. io la arrivo prima, capito? Ma se questo non risponde per darle conferma, adesso le mando una mail, vediamo un pochino cosa dici. Ma Daniele non c'è, Daniele? Sì, io sono già arrivato. Ma vado sul canno, vai, non guardate, sì. Ma sei sotto? Caffa. Hai visto dov'è il cancello quello verde grande, il basso? No, il cancello verde basso ancora non l'ho visto. Io sono praticamente alla prima, sto avanzando piano piano. Adesso ho passato l'edicola. Positivo. Adesso sono davanti a una viuzza, credo che sia per... Il cancello verde l'ho trovato, sono di fronte. In doppia fila lì vicino al cascetto della Mondetta, un po' più avanti che sto scendendo. Caffa. E tu, Luca? Cava. Uiaia, andare. Ecco sono riprendo. Chi è che c'è rimasto? Gianni è andato a mangiare. Chi c'è, roba? C'era Luca Frippo e... Cosa, Mario, mi sa. Eia, Luca Flip è all'opera. Stavo lavorando. Ma anche una riserva? Quello è rimasto a secco, anche una riserva. Accanto di niente, accanto di 10 minuti, poi si innalza, non ho sentito per un paio d'ore, poi ritorno a 5 minuti. Hola. Ma ne voce, Luca? L'ho visto il negozio, una vetrina in vetro, una porta in vetro. Caba. Però non l'ho mai visto, lui sono passato un sacco di volte, lui è comprato per la cosa la riunione di prima, no? Eia. E che cazzo mi rivolgo, mi chiedi, facciamo un amico giù, della pasticceria, siamo un amico, ci posso aspettare. Cappa, ha morito. Hai conosco? No, so che è lì, però non lo conosco. Siamo molto amici da giovani, da ragazzini. Cavagaba. Ah, cioè sono due pasticcerie che sono parlando, ma aspetta. Ma il primo incrocio per Castella lei da lì, eh? Sì, abbiamo crociato, abbiamo detto salendo, quella lì è un visto. Dai, andava. Ma più forte, facendo pasta e torte, proprio lei, la non ce l'è. Ah, cosa ci risendi tu. E tu trovami come Protollera come fa le pasti lui. Ma buffurendi sì, ma stai scherzando cosa? Infatti gli arrivi uno o due, sì. Ma è la domenica a vedere, il mondo c'è. Ma tu parli di grandezza o di qualità? Io parlo di pasta e buone, se vuoi mangiare pasta e buone devi andare con diritto io. Pasta e buone e grandi anche, proprio pasta fatte bene, buone. Ah, taccolino! Ma cosa? Vabbè, comunque migliore che c'è. Secondo me io pasto così buono non ne ho mai mangiato. Protollella è protollella, non ce n'è. Sarà. Eh? E che è? Guarda, io ho mangiato le paste di cosa? Di. Quello c'è lì punti, di Vanali. Vanali si chiama. Guarda, le fette che fa lui con tutta quella di Protollella. Protollella la sua mette in tasca 100.000 volte. Guarda, non ce n'è, roba, non ce n'è. Tu vai la domenica la Protollella, ma anche in giornata, i giorni tipo martedì, mercoledì. Ce n'è varie da prendere le paste. Già lavora. Poi fa le torte buone. Guarda, sono bravi veramente. Luca, io ho amici pasticceri e ti posso dire, amici proprio amici, che so come funziona tutto il discorso, numero uno sono due a Sassari, Padova, via degli Astronauti e Pugioni, via Zaffarino, numero uno a Sassari. Ma, non lo so, io pasta ne ho mangiato da tre parti, in vari bar, però le paste più buone sono quelle di Protollella, non ce n'è, non lo so, per me è così, poi non lo so. Allora Luca, per fare le paste ci sono gli ingredienti preparati ci sono di prima, di seconda e di terza qualità. Quelle pasticcerie che sono detto io usano solo prima qualità. Guarda che Protollella la specie non le fa buone veramente, se non ce n'è. Allora, le paste che fa Vanali, c'ha la crema gialla, pare una ciliegina mortendo. Tu vai alla Protollella e guardi la crema, è la crema normalissima. Normale, non è da gialla. Luca, lo sai dove ci vado tutti i lunedì io? Vicino a casa tua a portare la loro parte con la conosci? Ma chi? Vanna? Quella è via Fucis. Ah no, negativo. Negativo roba, no. Quel tipo con i capelli bianchi, con gli occhiali. Ah, ma con la moglie, quelli due di nome sono di qualche paese. Vanno tutti i lunedì e il venerdì nel ritiro, le mani della squadra. Eiaia, no, no, lì sì, di vista così. Abbiamo anche le cose di Roberto. Sì, sì, appunto. Non è mattina ci devo andare, devo andare a fare un lavoro. A guadagnare o a ritirare? No, praticamente ha preso un altro locale. E bisogna portare via un po' di roba, sedie e tutto il materiale che usano loro per fare le sedie. A liberare un po'. Dice che quello lì dovrebbe buttare tutto a terra e farlo tutto a nuovo. Avanti. Avanti che vuole entrare. Luca, la sedia dopo lo chiediamo. No, Claudio, tu sì. Oh, non so. Daniele. Saranno loro che stanno facendo le prove. No, al basso, fratello 3, se senti un attimino fischiando, ma che non sia Luca Piper. No, qua Luca è 9. Negativo. Stanno fischiando, non li siete? Dai che vai splatter, no. Sento frusci io. Mario, riprendi se sei rientrato. Ma io ho detto, come ragionare? Eia! Ma perché non mi ha detto, ma non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha detto, non mi ha ascolto. Comunque a 1-1 di stazionale, gliela misurate Claudio. Che c'è? La stazionale sta misurata. Ah boh. Non so fare un po' di cose per Claudio. Ma è un gioco da bambini adesso, dai. Come? Che è un gioco da ragazzi. Ma che cosa è un gioco da ragazzi? Gava gava. Ma che cosa ha fatto? A mangiare è andato? No, ma sai, boh, sa già. Sai il gioco. Ma sei già sceso, Daniele Claudio? Sì, è già salito a casa sua, l'abbiamo già fatto. Sono qua che mi sto cambiando. Io ce l'ho anche sulle mail qua ancora. giunta, però. Dimmi. E c'è scritto, ti mando questa parte in ultima condizione come frequentimetro, modometro, rosmetro, voltimetro e segnalatore di segnale. L'apparato è in perfetto stato, non avere nessun problema in qualsiasi modo sono a tua disposizione. Quindi non c'è problema, se lui ha scritto a me che c'ha il frequentimetro, che c'ha il rosmetro, rosmetro, calibrazione con rosmetro, modulometro e strumento di misura. Qui c'è scritto, tra parentesi c'è scritto Smith, sia che non lo sappiamo cosa vuol dire. Capito? Quindi lui a me me l'ha scritto, perciò se non è così, io vedo qua a capo. Frequentimetro, calibrizia, è scritto pure, insomma ti scrivi nel bar, non calibrizia, l'ho capito, modulometro e segnalatore, è scritto tra parentesi Smith, comunque là, Rosner, praticamente lo Smith, quindi c'è scritto, in ogni caso sono in modo eccetera eccetera, vabbè, comunque mi ha scritto che c'è il a pigliare il culo. Perché come toccava negli alberi diventerà roba. mi stava facendo un brutto scherzo. E allora stavolta l'ho messo sulla base magnetica, infatti ti ricordi quando ero senza antenna l'ho messo sulla cabina e uscivo con quella? Thank you. andata anche su la tua misura. Allora, io sono detto anche su una terra. Io perché faceva del giro con la nonna, quindi che era in giro con figlio. No, io ma non voglio che l'hai fatta a farsi una situazione. Eccolo. Ma adesso un bacchettone è andato. Ma non si parla di un Mario, ci asciuga, Antonio, elettricista. Dove ti sei trattenuto questa sera? Non l'ho lasciato via subito. di Mario che aveva una piccola che aveva capelli biondi, lunghi, e volevo dire che aveva un due capo di belli, no? Ma lo volevo dire anche se sì, vabbè. Lo volevo dire così. E mi chiede di voi, ho detto, ma la via esista, la gente che ha visto. La via, c'era un bel paio di capelli. E qualcuno mi ha scritto, io non so chi ti ha scritto, io già entra. Io vado un collega, la dice, ma la Gambia a fare un intervento. E eravamo proprio davanti a un negozio di abbigliamento. Si è girato così, e mi ha detto qua, e mi ha detto, guarda che bella roba che c'è in quel negozio. Immagini di quello che devo prendere e in più mi manda avanti da sapere chi ti ha preso. io sa, l'esplicativa devo dare la differenza. Tanto ti devo dare. Ma tu ti dini, non mi dà nulla, ma gli parliamo un caffè. Senti, un caffè già non è nulla. Ah, no, no, vabbè, è finita. Siamo avanti io con Luca. Cosa stavo dicendo già? Ma è tutto cosa gli ho detto perché? Ma hai detto anche a me poco fa che il trasporto che sta aspettando le mie chiese siamo Mandelli. Molto bella, molto selettiva e poi è un pace, il pace dice tutto. Il mio radio in frequenza che c'erano a quei tempi erano il pace, la Fayette, il Tokai, poi dei dadi c'erano i noiti tipo quello che ho io, capito? Ma sono tutte radio di grande prestazione. Cosa tira fuori? Quante volte dichiarate il tratto la parete? Allora, noi abbiamo messo già 10 watt in AM e 25 in SSB. Allora ci interessano i 10, vuol dire? Sì, a noi ci interessa che la radio funzioni, poi. Se ne è fatto della radio, niente ti ha chiesto? Sì, l'ho detto che l'ho controllato e praticamente c'è la colonnina interna, siccome davanti, come quello che ho io. C'è una vitina leggermente mollata. Ma puoi mettere la diventata altoparlante esterno? Io ne ho uno bello, ne ho trovato oggi uno di un impianto surround, un Sony piccolino, e va benissimo. Sì, quando arriva già la portiamo qua, la proviamo qui, non c'è problema. Così verifichi quanti watt tira fuori e se tutto si sente. Cosa sono tutti quei tasti che c'ha sotto, Osla? Uno è praticamente la calibrazione, come un rockmetro, c'è un rockmetro in miniatura sul display. Una è la calibrazione del rockmetro e poi c'è la commutazione praticamente col tattino di SVR e Watt, capito? Poi c'è lo squelch, il tono, c'è il carifer per la sintonia SSB, poi c'è il Mikey Gain e ce n'è di roba. Dove c'è il ristorante cinese un po' più avanti a 200 metri. Vinci. Adesso si è messo in via Leonardo da Vinci all'uscita di Coso, di Alghero, per la strada per andare a Ombello. Si entra all'interno, sono stato un'ora per cercarlo ed è un buco, era molto meglio prima. Non c'è niente, non trovi niente, roba fuori mercato, mondessa. Ma qua io ho trovato tanta cosa, io ho comprato un sacco di roba elettronica di tanti generi, ma anche, ho fatto anche degli affari, delle cose. Questo qui l'ho preso da loro, l'ho pagato, mi pare, 35 euro questo Intex. Non è buono. Ho preso senza una Yashica, una macchina fotografica della Yashica, mi pare l'ho pagata 35 euro. Buona, mi messa bene. L'obiettivo era 70 mm, l'obiettivo quello del corpo massimo l'ho dato a un amico che gli serviva a lui, e anche se li facevo, se glielo davo glielo regalavo, mi ha tenuto l'obiettivo. Gracias. mettersi sui fattioni. Ho fatto fotografie a Sassari, se te le faccio vedere, con la neve, sono allucinanti, le ho fatte arrampicate. Qualche anno fa, che ci avevo le 7 7B e il TV 2680. Il VHF la 140 e 170, l'Argos, un BV 2001 e l'Intec 605. Thank you. giusto, allora non ce l'hai della linea, perché quella del 440 è l'SP430, che fa linea anche col 430 come radio. L'SP23 è quella che fa linea al TS2000 e al 140, l'SP31 è quella dell'850, già è quella. È quella del 940, come si chiama? SP940, quella che ho io. E allora deve essere l'SP31, guarda, lo vedo. Puoi prendere? Sì, l'ho messa, la supposto. aspetti, il primiere rimane piegato in due, due e mie cioè già. Ho fatto la risonanza magnetica, due e mie, una sopra praticamente sul lombo e l'altra appena più sotto, due e mie, due a 42 anni. Cosa sarà 60 anni? Tutti fermi e pulizi. A chi non va a vedere, ma che sta in camion? Il ho capito cosa vuol dire. E poi lo sai cos'è? L'umidità, per dire, a freddo fai uno sforzo e ti crepa quello. E infatti già quello lì, io pensavo fosse l'ombra si attraggiva proprio per tutta l'umidità, insomma la temperatura, quando la nubi non ne parliamo mai, o ruggino, d'inverno, né a neve, né a freddo, sogna per carità, guarda, avere due giubbotti a camminare mentre rimarcano che da un freddo di via aggancarsi i russi, eppure bisognava stare lì e ci stavamo, capito, il freddo che c'è in quelle zone allucinate. Io pensavo fosse una mossatagia, invece questa mossatagia se n'è andata in ernia a quanto pare, perché il problema è quello lì, il dolore che io ho e questo ernia, questo erniellisco che ho, capito. Vediamo di lanciare a Roberto prima che chiuda, avanti Roberto. No, Claudio, mi stavo dicendo poco fa, Gianni, ma il frequenzimetro ce l'ha con la radio? Quale? Con la radio elettronica? Sì, no, Claudio, stavo dicendo se ce l'ha. Nella fotografia non si vede, però lui a me mi ha mandato un'email ieri, perché gli ho fatto delle domande, e mi ha scritto, te lo faccio leggere, mi ha scritto che la radio è praticamente nuova, fiammante, e che c'è il frequenzimetro, è tutta quella roba praticamente, l'ometro, l'altimetro, modulometro, capito? Anche i manuali d'uso di quella radio. Ecco, c'è tutto, c'è anche la scatola, sino al tuo radio. Io, guarda, quello che a me, perché una radio a me l'ha fatta prendere Gianni, l'ha fatto tutto Gianni, l'unica cosa che non mi avevano mandato è il manuale di istruzioni, capito? Però la radio era in perfetto stato, estremamente, estremamente c'era qualche cosettino da rivedere, però questo mi sembra una persona seria, vediamo. Purtroppo, vabbè, io sinceramente non ti posso assicurare niente. Questa gente lavora in questa maniera, speriamo, spero per te e per me che in questo caso sono veramente, che abbiamo fortuna e che sia tutto in regola, perché così stiamo comprando tramite video. La radio si presenta bene al video, poi chissà voi come si presenta dal vivo. Caffa. Comunque tornando al domani di sera, noi in officina abbiamo il banco di tiraggio, mi serve qualcuno. Ehi, per me è una breccia, vabbè. Anche la mia, anch'io sono spaventato e dispaventato, nel senso che se io ho preso il doppio di te, mi deve arrivare una radio che sei in condizioni come dico io, ho fatto un grandissimo affare. Se giustamente c'era da fare qualche cosettina, lui mi ha assicurato al 100% che la radio è fiammante. Fiammante significa per lui nuova, e tecnicamente, meccanicamente, mi ha detto tutto. Claudia, non ti preoccupare di niente. Se c'è qualcosa che non va, anche questo mi ha detto, sono a tua completa disposizione. Quindi speriamo tutti e due che siamo andati bene, Robert. Passerò anche io così. Dipende, Mario. Io grosso sono, però fino alla giungla. quello, forse non lo copri. Vabbè, allora sì. Perché devo aver lasciato la manica larga, a fare come io volevo, no, per forza. Avanti, euro, diciamo, da certi punti di vista può essere favorevole, però secondo me noi ci abbiamo, l'Italia ci ha guadagnato alla grande. Sì, l'Italia che c'è, l'Italia Stato, non l'Italia cittadino. Cittadini no, perché ci sono i furbi, però parliamo di nazione Italia, ci ha guadagnato perché l'inflazione è stabile adesso. Su quello, lo Stato ci ha guadagnato, ragazzi, limiti. Sì, sì, ma a livello internazionale contiamo qualcosa. L'euro, noi compravamo solo in dollari prima l'Italia, ma dovrei fare le cose importanti dell'energia e così via, dovrei comprare in dollari. Adesso con l'euro è diversa la musica. Però purtroppo ci sono i negozianti, quelli che vendono, ne hanno approfittato troppo. Prima di mangiare una pizza con 20.000 lire, adesso ci volevano 25 euro per la stessa cosa. Senza problemi. No, è assurdo, io me ne sono andato dalla pizzeria, l'esempio più eclatante. Allora ha comprato una pizza la pagavi 5.000 lire, adesso 5 euro la stessa pizza. Sono la pizza e vabbè, io l'ho notato in tutte le cose, vai a comprare olio e venire il combattante, perché io prima l'olio della macchina lo pagavo 10.000 lire, il Serenia per benzina. Oggi lo stesso olio 10 euro, anzi secondo dove vai 11 euro. Invece nel reparto mio in carrozzeria i prezzi non sono aumentati rispetto a 4-5 anni fa. Se vieni a fare una verificatura di un prezzo la confronto sempre con le lire, io faccio più o meno la stessa cifra. Ma tu sei uno dei pochi, è vero, tu sei uno dei pochi, perché io conosco tanti carrozzieri, non perché, ma molte volte hai bisogno di una pizzeria e dammi 10 euro, e dammi 5 euro, e dammi 10 euro. Quasi tutti i grandi sono 10 euro, avvio. Ma pulito una molletta, una pizzeria, 10 euro, cioè, quasi compreso, 10 euro sono 20.000 franchi. E così se vai in officina, e così se vai un po' dappertutto. Ma noi lo sai quanto prendiamo tariffa oraria a prezzo pieno, diciamo? Beh, io non lo so, ma penso che siate sempre a prezzo pieno, penso che siate sempre sulle 30 euro all'ora. Gurandoda, noi a tariffa di assicurazione siamo 24 euro, siamo come tariffa i più cari, almeno siamo i tre più cari a Sassari che ci riconoscono, però al cliente lo fai pagare intorno ai 20 euro, 19 euro, e ci lamenta che è troppo. Beh, pagando 20 euro siete quasi a 40.000 lire l'ora, Io mi ricordo un po' di tempo addietro, prima di esserci la lira, andavi da Gigi Silano giù e c'era scritto da tale ora a tale ora lavorativa, il prezzo era 30.000 lire l'ora, allora. Vedi che adesso ci sia stato un po' di aumento, che si è salito a 40.000 lire. 40.000 lire sono 20 euro l'ora, Non è che sia molta la differenza. Poi c'è quello che fa il furbo, che anziché prima era 35.000 lire, oggi è 35 euro, secondo dove vai. Allora io ti faccio un confronto, io vado a tagliarmi i capelli da un barbiere in via Catalocchino, ci vado da quando avevo 7 anni, avevo di 42, non sai quanto pago per tagliarmi i capelli? 10 euro, e ci mette 10 minuti, diciamo un quarto d'ora. In un'ora ci sono quanti quarti d'ora? 4 quarti d'ora, e sono 40 euro a ora, sta prendendoli. Sì, ma è così, È così, un po' dappertutto, è così, caro Roberto, cioè io non è che voglio penalizzare nessuno, però gente onesta che confronta la lira con l'euro ce n'è molto, molto poca, si possono contare su una mano, perché se no per tutti quello che prima era 10.000 lire, oggi sono 10 euro, fa tutti i gatti, indistintamente. Confermo, però noi io a farlo almeno come carrozzere non è così, perché io faccio, addirittura ti posso dire, faccio per difetto, se uno doveva fare 300.000 lire in lira italiana, dico dammi 150 euro, non faccio mai 152 euro per confrontarlo con le 300.000 lire di lira. E Cappa, anche sto dicendo che sei uno dei pochi, vabbè, non è che sto dicendo che sei l'unico, ho detto tu sarai uno dei pochi. No, perché io ho avuto un incidente che mi è venuto un dilli addosso e mi aveva spaccato il paraurti, il faro, oh, mi ha mancato il cofano, lo spigolo del cofano, il parafango, mi ha rotto il braccetto e mi ha spaccato la ruota. L'ho portata da un amico, perché era un amico, e mi ha fatto pagare 800 euro, tutto quanto. Tu mi dirai, ma non te l'ha pubblicato bene, non te l'ha fatto, ma però mi ha messo in condizione di poter viaggiare. Però, per l'assicurazione, non mi voleva dare manco quelli lì. Che macchina sei tu, Mario? Una 155. Sono 800 euro, ti ha cambiato tutti quei pezzi. Cappa. Ti ha regalato, ti ha fatto un grande regalo. Sì, ma diciamo mi ha fatto un grande regalo, un pezzo non li ha comprati nuovi, no? È andato da Marcello, ce n'era uno in smantellamento e ha pigliato tutto su quella lì. Ah, ho usato ricambi usati, allora va bene. Ma mi ha messo in condizione di viaggiare, però per l'assicurazione mi hanno mandato 500 euro, infatti sono in lite, e mi hanno detto che la macchina era da rottamare. Quello lì lo vedo io se la macchina è da rottamare o meno. La macchina era a posto, tu mi devi mettere in condizione di riavere la macchina a posto. Infatti mi ha fatto la fattura, pure gli ho mandato la fattura, adesso c'è tutto l'avvocato. Cappa, però il discorso, quando la macchina, la riparazione antieconomica più del valore del veicolo, non ti danno. C'è la possibilità di costare entro un 20% in più, però di chi non ti danno. Allora, alla prossima volta che mi succede un qualche cosa, io vado all'assicurazione, gli do l'impianto della macchina mia e gli dico di farmi quello che voglio. E loro mi ricomprano una macchina precisa, identica, che sia funzionante, che sia a posto di tutto. Loro ti possono fare una supervalutazione, però deve essere dimostrabile per dire che tu ci avevi il motore appena rifatto, l'avevi appena riverniciata, che avevi, non lo so, delle opzioni particolari. In quel caso lì ti possono fare una supervalutazione, però se la macchina vale 1000 euro, di più di 1100 non ti li darsi. 1000 euro, quello lì dipende da chi lo dice. Se io ti dico a te, cioè a te, niente, stiamo facendo un piccolo esempio, se io ho una macchina che a quattro ruote vale zero, cerca di seguirmi, e la macchina è perfetta di tutto quanto, perché io gli posso portare testimoni che la macchina è a posto di tutto, perché tu a me mi devi dare 300 euro, non ho capito, che sei tu? Allora io ti do le chiavi e tu l'assicurazione, vai dove vuoi, mi cerchi una come ti pare ti piace, me la compri che sia precisa e mi dai le chiavi a me. E la compri tu, fai il passaggio, fai tutto quanto tu. A me non mi interessa, io voglio una macchina su un punto. Ho trovato il microfono Mario, c'hai problemi? Sicuramente sì. Hai capito, Robè, come funziona? Cioè io non è che chiedo che io voglio i soldi, ti sono le chiavi della macchina, la porti dove vuoi, me la fai riparare e me la ritorni come era. O quante per no, ti do le chiavi, tu la demolisci, ne compri una, ti pari prestigio e me la dai. Allora se tu la demolisci la macchina, tu perdi il possesso, loro ti devono pagare anche le spese di rimatricolazione e la parte dell'assicurazione non goduta, la parte del mollo non goduta, e questo te lo pagano per legge. Però se un bene vale 1000 lire, loro più di 1000 lire non ti possono dare. Ma tu quanto mi chiama? Cosa? Quanto mi ha macchiato? Mi sembra che ci abbia 14 anni, però non la cambio con una macchina che stanno facendo adesso, perché c'ho la comunità, c'ho lo spazio, faccio tutto quello che mi occorre. Poi per il lavoro che faccio io voto un carriaggio, Gianni. Non è che io voto né l'impresario né rugoso. Io voto un carriaggio. E la macchina la uso per tutto, non me ne frega niente. Però la macchina mia è sempre a posto. Sì, io capisco quello che dici tu, che la penso come te. Però sì, guarda, ma sul valore delle quattro ruote, capito? Sul valore delle quattro ruote. Sì, ma io sono d'accordo che loro si basino sul valore delle quattro ruote. Quando loro a me mi dicono 300 euro, io dico, figlio, 300 euro e comprano una macchina precisa. Pum. Poi voglio vedere se loro con 300 euro comprano una macchina precisa la mia. Io gli dico, ne manco di gommi. Vabbè, così. Ma se no l'avvocato l'avrei fatto pagare a chi ti ha toccato. Cioè, la sicurezza la paga a te, ma qui sta facendo pagare la rimanenza. Dovrebbe essere così la legge, però non lo è, perché lui dice che è assicurato e paga per tutto. Hai capito? Io mi sono commesso mosso. Anche se ce ne date voi, sono un furgone, mi dichiarsi di andare alla macchina, mi ammazzo dentro come un solito. Ma in curva è capitato? E allora? È capitato in curva e io ero attaccato al muro, dove cammino? Sopra il muro ho capito. E quindi lui ha sbandato e non ti ha addosso, vuol dire? No, lui non è che ha sbandato, lui era con un delle furgonato di quelli maxi. Come ha fatto la curva? Era un bel veloce e si è stretto. Come si è stretto si è agganciato a me e si è agganciato con la parte posteriore, con l'asse della ruota. Infatti lui con l'asse della ruota mi ha agganciato la ruota mia e mi si è appusciata. E la bisogna che mi No, era troppo veloce, dove mi è capitato a me è un pezzo un po' brutto, perché se la pigli giusta e camminando piano vai benissimo perché ci gira anche il tram. Se invece la pigli troppo veloce sei obbligato a stringere perché altrimenti ti butta fuori, buttandoti leggermente fuori c'è il palo della luce. E così che è, battimi in un paro, sei continuato a me. Che successo? Vabbè, aiuto, faccia cinque. Sì, Giovanni, io devo rimettere, vedo, rimedio almeno due o tre al mese di questa situazione così. Abbiamo una Lancia, un'officina la stessa situazione. Una macchina del 98, siamo fuori valori, la macchina vale... Io pensavo volesse 3.000 euro, siamo andati a controllare l'ultima valutazione, 2.200 euro. Mi tolgono 200 di registro e ne danno 2.000. Quindi la macchina. Ci sono 3.000 euro di danno. Un casino, eh. Non va bene però così, perché se c'è la macchina nuova, io prendo la nuova 50. Avevo 50 e c'è un parcheggio da soffocare. Questa signora faceva una curva, c'era una pianta dietro, lì stava girando, si è girata per te. La legge dice un bene non può essere pagato più di quello che vale. Tu dici vai, la macchina mi fa un uso, anche se invece mi fa un uso come una macchina nuova, l'assicurazione la pago per intero come una macchina nuova, purtroppo è una legge che non si può cambiare. Robè, la legge non è che non si possa cambiare. Una volta l'assicurazione andava in causa. Quanto è il danno? Tanto. Non ti conviene aggiustarla perché il danno supera il valore della macchina. Sono d'accordo con te. Pigli, vai in una concessionaria, ti pigli una macchina, guardi che abbia gli stessi prezzi di quella lì, o se no gli compri lo stesso modello di macchina e te la dai. Quando la paghi 1.000 euro va bene, vai, la compri, gli fai il passaggio, gli fai tutto quanto e gliela dai. Ma non è detto che tu a me mi fai un danno di 5.000 euro e mi dici di buttarci la macchina, anche a me se fai avremmo comparata. Non ho capito. Io quando ho comprato quella macchina l'ho pagata 40 milioni, però non è che me la devi distruggere tu, che sei distratto, che sei ubriaco, che sei pensando chissà che cosa. Non ho capito. tu a me mi hai fatto un danno, ecco, mi risarcisci il danno. Se non ti conviene, vai in concessionaria, sto cercando questo modello di macchina, quanto vale? 2000 euro, benissimo. Vedi la macchina e la dai al cliente. Non ho capito perché loro debbono ragionare. È antieconomico, non ti ripago, anche all'hai. Cioè io ci ho detto tutti quando me la sono comprata, perché tu a me mi devi dire di buttarla via? Non ho capito, o me la giusti o me ne dai un'altra precisa, tutto qui. Ehi Caffa, non è così semplice, purtroppo non è così semplice. Non è così semplice perché c'è mangia mangia. E se io quella macchina ho deciso di farla diventare macchina all'epoca, non ho capito perché me la devi impedire tu. Oh signori, io adesso interrompo, mi gioco su Mendi. Vi saluto a tutti, saluto a te Mario, a Gianni, a Claudio se sta ascoltando e poi tutti quelli che sono all'ascolto. Ciao Roberto, ciao Claudio, stavo ascoltando. Ciao Roberto, buon quarretti e buon tutto, ce la riascoltiamo alle prossime, vai Gianni. Sono tutti scappati Claudio. Allora cosa ne pensi del mio ragionamento? È valido oppure no? Beh certo. C'è anche una funzione, io non ho capito perché tu non mi devi mettere in condizione di usarla. Non ho capito. Ti l'hai vista la macchina mia come? Però non è detto perché è una macchina che ha 14 anni e tu me la devi distruggere. Perché quello che è avrebbe 14 avrebbe 10 o avrebbe 5, perché è la stessa cosa. Anche arrivo io gli faccio una macchina e dopo gli devo fare la cura assicurazione, ma se la macchina mia poi c'è una cosa, ma aggiungevi la macchina rovinata che tu non mi vuoi pagare, non ho compreso. Siccome in mezzo a queste assicurazioni ci sono tutti i pezzi grossi che fanno parte del governo, allora, è così che loro dicono no, non dobbiamo pagare, ma c'è che la ritti. Ma loro come regoliamo ci guardano su determinate cose e quindi è sempre un bel casino. Io momentaneamente anche se è piccola la fattura l'ho pigliata, l'ho portata all'avvocato da giù a arrangiarsi edo. Allora sapete legge dei crimini. Penso che può essere sicuro. Ah beh, conviene sempre fare così. Cosa fai a girarti i bibilici e parlare? Gappa gappa. Oh Claudio. Oh. E domani ti senti con quella persona là, al limite, se non ti interessa quel microfono, mi fai una valutazione e me lo dai a me. Comprato bambolina ultimamente. E non sai manco chi sia. Vabbè, adesso spiegare in frequenza queste cose non va bene. Niente. Ma Claudia se ce lo ricorda. No, perché non lo sto più utilizzando. E siccome io ogni tanto la vedo, perché secondo com'è, non lo so se a Claudio potrebbe interessare. K Claudio, e beh, anche lui si deve tenere informato, anche perché, cosa vuoi, se le girano talmente tanto, e poi Claudio, non te lo guardare così, è un grande appassionato per le stazioni radio, e se c'è qualcosa che gli piace fa poche fiamme pur di averlo, no, non è di quelli che si tira indietro, è vero, è così, purtroppo è una sua grande passione. E lo so che è un poco difficile da trovare, è un po' difficile da trovare quell'apparato perché è piccolo, è bello ed è molto compatto, e poi è un apparato che si può usare anche 27, capito? Non c'ha niente di eccezionale, però è un bel bello, bello, selettivo, non disturba soprattutto. E dovrebbe essere, per quello che adesso io è valutato, adesso è valutato intorno ai 600 euro, qualche anno indietro era valutato 1 milione, là. Oggi è sceso un pochettino, però non è facile da trovare, a meno che non capiti come quello lì che si sta vendendo tutto e sta facendo fuori tutto, pure perché era del padre, e magari il padre è morto e lui non se ne fa niente, sta smerciando tutto. Solo in occasioni così lo puoi trovare, se no è molto difficile, perché chi ce l'ha se lo tiene, addirittura in continente so che ce l'hanno i camionisti sul camion. No, vale 300 euro, 300, 350 euro, non di più. E allora, è vecchio mi come apparato, non è nuovo, non è nuovo a costruzione. Capa, se no è preciso 140, solamente che c'è la scheda dei 6 metri. Però a me non è per la scheda dei 6 metri, è che io ce l'avevo nella denuncia e siccome alle porte sanno che io ho quello lì, se un domani dovrebbe venire un controllo che io ho sempre la stessa stazione, non l'ho cambiata, capito? No, non ne ho segnato io il numero di matricola, io ho messo solamente nella denuncia, siccome sono apparati non omologati, e io il numero di matricola non ne ho messo, capito? Il numero di matricola uno se lo mette se ha paura che glielo rubino o che glielo facciano, ma se no io il numero di matricola non ho, anche il BV 2001 ce l'ha la matricola, però io non ne ho messo semplicemente ZG della BV 2001 e boom, Argus, ho messo Argus, il numero di matricola non ne ho messo, perché sono apparati non omologati. La matricola ho messo quello dell'Inter che c'è in concessione, boom. Capa, perché non c'avevo anche le 27B, e c'avevo anche il VHF addirittura, e ce l'ho in denuncia, Molta gente quando l'ha sentito si è messa a ridere o quando l'ha letto dice che non l'hai anche denunciato in questo accesso, e tu io mica c'ho niente di nascosto. Ed era buttato qui insieme agli altri apparati e niente, eppure era un ricce trasmettitore da 140 a 170, è vero, che ce l'ho oggi, tutto oggi ce l'ho. Claudio, sì. Aia, sono entrato, sono qua. La radio è sempre uguale, ma... Caffa, la radio è sempre precisa, sempre tower. Caffa, stavo facendo alcune prove qua, con il microfono, ma... Niente da fare, non mi piace, e allora vi ho attaccato questo. bassicata delle altre volte, appena più bassina come modulazione, sempre parlando da lontano oppure non lo so, ma mi sembra leggermente meno amplificata dalle altre volte. Il mitigin, adesso l'ho messo come prima, bello. Ma scappa, quello è il Tower, inconfondibile. Non ce n'è. Wow. Già va bene così, come dicono ad Alghero, già va bene così. Gappa. Oh Claudio, stavo dicendo, ma quell'amico nostro che entrava sempre prima da Monteduglia, se non sbaglio che era, che faceva parte del corso dell'aeronautica lì, che si saliva su in alto col Giappone, che non mi ricordo come si chiama manco, ma c'è sempre in frequenza? Non mi ricordo qui, dice. Cappa. Era una riga in muscio. Morto è poverino, in cacca. Oh, io sapevo che doveva andare in pensione e che se modulava. Da casa oppure dall'ambiente. Si è ammalato, caro mio, chiamato in pensione, lì c'è la polveriera, ha fatto un sacco di anni lui in polveriera. Bravo, poi Betogo, anche alla radio era un bel gamba, scherzavamo sempre io, lui e quella di Giorgio, che anche quello lì non l'ho più visto, prima ogni tanto lo incrociamo con la motocarrossella, sicuramente non so che cosa abbia fatto comunque. Non so quanti anni è durato, insomma, così poi è andato, è morto. Gappa, mi dispiace, era una persona in gamba, cazzo, tutte le persone in gamba che conoscevo, gira se ne sono andate, così è, caro mio. Ma poi ultimamente si aveva venduto la licenza e stava facendo viaggi con una motocarrossella che aveva pure il baracchino nella motocarrossella, però un giorno sì e l'altro lo stesso si poteva dire che lo incrociavo, però adesso è un periodo, sarà un annetto che non lo vedo più in circolazione, ho buttato via tutto e non ho voluto più saperne. Niente, perché era grande e tu mi hai Alessandro di età. E il capo, gli piaceva anche bene. Ma chissà che se ne sia andato in pensione. Il capo è andato in pensione quando si è venduto la licenza, perché aveva una certa età e non ne voleva più sapere di fare il tassista. E niente, c'aveva una motocarrossella che ogni tanto faceva viaggio, lo vedevo qui alla Deloce, lo vedevo sempre in zona, però adesso è un annetto che non lo vedo più. Chi lo sa, io però mi ricordo che veniva anche a Sacro Cuore a trovarci in tassi, si fermava a parlare, no, era tranquillo. Era di Grecia, qui faceva sempre ridere, faceva le sue battutine, niente, da. Andava bene, da. No, ma di Domenico Cristo non credevo che fosse deceduto, me l'ha detto adesso Claudio. E anche a me me l'ha detto lui, gli ho fatto la stessa domanda, io Nicola. Sì, lei è durato, si è ammalato praticamente dopo che è andato in pensione, si è ammalato, ma non era durato molto, capito Mario? Non era durato molto, era così, dato un po', io l'avevo chiesto anche, l'hanno tanti a provarlo perché ci conoscevamo molto bene, altro dice che l'aveva messo male e quindi niente, si è risolvato e si è andato. Succedono a noi esseri umani. Oggi vedremo domani, bugaro già. Beh, cappa è già, che cosa vuoi fare? Siamo di passaggio su questo pianeta, è vero, è così che bisogna godercela il più possibile, perché poi non è nulla. Purtroppo sembra ieri che eravamo bambini e cresciamo tutti in fretta. Ma gli anni volano, noi non ce ne rendiamo conto, però gli anni passano e niente. Io mi sembra ieri che avevo 20 anni che me ne andavo a ballare e oggi me ne sogno molte volte. A meno che non capita in qualche festa, in qualche cosa, ma se no, Magari se ci vado qualche volta, però no, con mia moglie, gli amici e cose, se no anche due sabati fa. Capo, ma tu c'hai, senza esagerare, c'hai quasi 20 anni in meno di me. Ma io, non che ho 47 anni. 37 o 37? Io l'altra volta ho capito 37. 37. Claudio so che ne ha 47. Ci abbiamo anche soltanto Claudio quasi, anzi sono tutti piccoli. Insomma, siete granditi anche voi, là. Allora io che, cioè a te credevo che eri più giovane, Claudio già lo sapevo che ne aveva 47. Sette anni più piccolo di me Claudio, e io a te ti facevo ancora più giovane. Io che è malattia, ho vecchietti. Marco, anche il resto. E chi tu sei di Marco là? Io ho vecchietti. Ma sempre più tanti. Non ho detto che se li porta male. Siamo spiritualmente giovani. Cioè, non è come te e me, che sono qui in mezzo alla montezza, in mezzo a un garage, in mezzo ai buci, per forza sul tuo cartoncino, come in cui si arriva, giusto Buciomari. Però, diciamo che è il lavoro che ti porta, è un lavoro diverso, ma tu, grazie a Dio, già, sei sempre ben etichettato. Sì, Mario, quando io sto in cantiere, anch'io sono vestito al lavoro, non è che vado a lavorare in abito, chiaramente non è che ho avuto bignoio, però scarpe antifortunistiche perché la legge lo prevede, dice e via, non è che sei, quindi ognuno c'ha il suo lavoro, purtroppo è così. Quando dobbiamo uscire cerchiamo di presentarci al pubblico in maniera ottimale, altrimenti io comunque sono certo del parere che non è l'abito che fa il monaco, quindi. Quello c'è stato ombra di dubbio. Allora, quello c'è stato ombra di dubbio, lui io l'ho sempre detto. Niente, poi giustamente ognuno c'ha il suo lavoro, ognuno c'ha i suoi tempi, e purtroppo quando c'è un curriculum non è che poi sa. Arrivo. E beh, così è. Così va il mondo, ma allora ancora non mi ha telefonato. Ma io dico una cosa, ho visto una scena in un bar una volta che mi ha fatto un po' di ribrezzo. Un attore vestito al lavoro è entrato al bar, ha chiesto una birra con due amici e il tipo gli ha detto che non era grave, perché non poteva stare dietro il banco vestito con la maniera tutto sporco di calcinaccio, di cose. Prima ha detto guarda cambiarci, come sei cazzato e vedi la vera dopo mi rimane nato. Non ho capito io perché ero un buco, cioè se lo stavo volendo perché devo fare così. A un certo punto ci sono provato, devo essere servito, è finito come gli altri. Poi ci sono bignolo e io sto lavorando. E mai lo conosce un bel pezzo, è San Barcellona. Qualcuno c'è molto bene, stavo parlando anche l'altro giorno. E c'era le culture. E lei la papà rimane in atto, vedo, e gli sono la buffoneggia, se ne fanno qualcuna, si alveni, si prendendo la via, la ciappa di Don Caruso. Molto, guarda che è una cosa molto offensiva a me, perché adesso io per dire ci sono dei giorni che non faccio niente, non mi sporco, non niente, perché sono lì in magazzino, magari che faccio pochissima cosa, magari arriva qualche cosa da mettere a posto, che non è detto, perché molte volte ci arriva la roba da Cagliari, l'altro giorno ci sono arrivati dei tubi di coso, di quello a saldare, quello nero, quello che si usa per le condotte, era tutto gatto pieno di garraggio. Beh, a usarmi te mi sono guffato, niente, pariu, buh, beh, mi serviva anche qualche cosa di mondezza, perché mi sono fatto nero, ma talmente nero che... Ma com'è sono andato subito a casa che non dovevo trovare nessuno, mi sono lavato, mi sono cambiato e via. Però è una cosa molto umiliante che uno stia lavorando, trova per dire un amico, che passa un amico e gli dice io entriamo al bar, ci beviamo un caffè, ci beviamo una birra, cazzo tu mi insulti dicendomi che io sono sporco e non mi puoi dare la bottiglia della birra. Beh, mi dà che dire da quella capo di servizio, perché tu sei lì per servirmi. Poi se io sono sporco saranno fatti miei. Interessante che non mi siano via guadagnato da voi. Se sono sporco di polvere o di cose di lavoro, a te non ti ne ha fatti nulla. Questo è molto severo, capito? Però clienti, quasi zero, a chi non è bisardo, tutti quelli dove stavo via l'associazione hanno fatto via, beh, stanno sciambando tutto, adesso la devono salvare. Avevano visto che era così, mi chiedevo di farti caffè, facevano la rossa. Magari non te ne voleva fare, capito? Per ascoltare la macchinetta, a volte non te ne voleva fare. No, non esiste, no. Quindi lì si devono mettere detto a quei signori che quello lì è un esercizio pubblico. Io entro, ordino, pago e me ne vado. Poi non sono affari suoi se io sono così o se io sono colà. Perché non tutti lavoriamo dietro un banco come lui. Anche il banchiere sembrerebbe l'etichettata, però perché? Perché non si sporcano niente, è lì, tranquillo, al fresco, niente, capito? Perché tutti i banchieri non siamo. Tutto qua riprende già. Ma quando il banchiere ha bisogno dell'operaio lo cerca, quindi deve capire anche che c'è chi lavora per lui. Beh, certo, quello è senza ombra di dubbio. Quello è senza ombra di dubbio che sia così, però se uno si accorge che fare le bianchine ti cade sempre la pittura addosso, ti cade quello, ti cade quell'altro, sei soggetto a essere, diciamo, con un abbigliamento un po' sporco di coso di lavoro, davvero. Non è detto che uno perché è così che sia sporco, sì, si è sporcato lavorando, tutto lì. Non stava facendo niente di male, si stava guadagnando la giornata e buh. Come io non ho sentito gli ozzivi l'altro giorno qua, che stava dicendo che lui praticamente ha la fattoria, lavora in campagna e quando deve scendere in paese per prendersi qualche cosa ci va visto come si trova la campagna. Poi dice di quello che dice la gente non me ne frega nulla, io so solo come sono fatto io dentro, poi a me mi criticano perché sono mal vestito, ho vestito da pastore o con i stivali o cose, non mi interessa. Ma infatti, sto dicendo, non è l'abito a far monaco, perfetto, ognuno ha il suo mestiere, capito? Il suo mestiere, non è che io sono al lavoro, che esco a mezzogiorno, a luna, e devo andare, rientro alle due, devo entrare in un bar, prendiamo un panino, noi possiamo andare a casa. Mamma, sto lavorando, quindi avevano le case, io c'erano la racina a tutti, c'era me, non me la fotti nulla, nel senso dico io per dire un'altra persona, capito? Già, non c'entra niente, specialmente molta gente è convinta di fare ciò che vuole, capito, della vita degli altri, ma realmente non è così. E si sono sgacciati, lì bravissimo. Quando la gente la cosa l'hanno fatto perché non faceva entrare quelli del posto, faceva entrare solo i turisti nel bar. Alla guida della mia dura, mi su. Non l'ho arrivato. Hanno ammazzato, così l'ho arrivato. Praticamente loro l'avevano da di fronte, no? Dovevi permetterlo di entrare. E dal tavolino dal bar l'hanno proprio centrato in pieno, quando era dietro il banco, l'hanno investigato in pieno. Uscire da lavorare, ognuno dovevo spiegare quel pigiatino suo, perché ce n'erano molti che venivano da Nurvi, da Usilo, un po' da tutte le parti. Allora il cantiere era abbastanza grande e niente, si usciva lì e quando si usciva io che andiamo a berci una birra, una ne pagavo io, una ne pagava l'altro, uno ne pagava l'altro. E quando la vidi diceva di chiudere cacce di birra, anche se stavamo in 40. Così che non è che gli da uno o due pulli di birra, perché ci sedevamo lì e facevamo la chiacchierata e poi ognuno a casa sua. E consumevamo. E cosa ci doveva dire allora il padrone del bar, che eravamo tutti sporchi del lavoro? Non vi credo che mi siete portati un locale, non avete compreso. La zia Ri, sai visto che ha detto la zia di noi? A chi lui che non faceva tutta la vita, non faceva me, non faceva anche questa mezz'ora che entrava in lui. Beh, dipende anche dal punto di vista, come la pensa uno. Ma questo qui era proprio occhio, faceva le vecchie qui, non ci sa fare i clienti, no? Non vendere i gruppi. Gappa, ma quando è così, ma siamo entrati, entra chi sono a fianco. Mi ricordo già Rosulia. Gappa gappa. Tu ci hai quando andavo a trovare mia zia, con mia madre, e niente. Anche io lo conosco bene il Sacro Cuore, là. Angelo, non so se te lo ricordi, tu a Delfino. Sì, ho sentito nominare che fa questo. Quello lì è da col fratello di Luca, che allora stavano lavorando assieme, e gli hanno mandati a signori che dovevano fare un intervento in una cabina elettrica. E gli hanno detto che gli avevano dato l'ok, che era proprio tranquillo, che quando arrivavano loro la corrente era staccata. E invece, cazzo, ha pigliato coso ed è entrato, perché sapeva che quando arrivavano loro era tutto staccato, che non c'era la corrente. Come ha aperto lo sportellone per entrare dentro, ha pigliato una cosa, ma cosa, però. Infatti mi sembra che gli diano pure la pensione adesso, a Angelo Delfino. Sì, se la vai con tu. Se la sei andata a casa, se la con tu, ma dura e cara, ha deciso tutta la tavola, giù c'era Corso, c'era Stefano, dice che sta pigliando mezzo sciocco un buruetto. E io ti grido, aiuto, per carità. E cosa faceva allora, l'elettricista? Lui è elettricista, lavorava per quella ditta che faceva i lavori per l'Enel. Adesso non mi ricordo come si chiama quella lì, che facevano gli impianti sulle strade e tutto quanto, però lui il più lavorava sulle cabine. Così è. Claudio, ci sei ancora? Claudio. Roberto Quadrato? No, Roberto Quadrato non c'è, se mai c'è Corso, c'è Luca che stava facendo roba su internet. Luca. Ma che ti roba tua? Luca. Ci sono tutti i tuoi amici, bisogna. Piccata. Ma tu domani a lavorare vai già? No, oggi io sono in malattia sino a sabato. Come faccio ad andare? C'è la febbre alta. KK. E io oggi, siccome mi ha detto cosa, gli ho lasciato tutto quanto lì, chiavi e telefono. Questo qua. che io ho un amico, mi ha detto che stava male qua, se l'è fatti con fuori a Bologna. È stata questa fabbrica di formaggi, questa roba qua. Mi ha detto, guarda, già, siamo partiti la mia ragazza, tutti e due, trattati bene come figli da mio principale. Ci hanno dato l'appartamento lì. Facevamo anche i custodi, perché quando stavamo lì controllavamo anche la vita, capito? Perché uno si fa no. Ci dava qualcosa di più e tutto quanto. Mia moglie faceva una custode praticamente, io lavoravo nella vita, però ci avevamo un guadagno, poi ci siamo ritornati qui per la nostalgia, glielo avevamo urlato la vita, poi io ci siamo andati da mezzo a loro quando per tornare in mezzo alla cacca, la vita. Sei così, no, io me ne sono venuto nuovamente qui in Italia perché cioè, sembrava che mi mancava qualcosa, perché quando andavo al mare la spiaggia non era come la nostra, era tutta, tu immaginate, una spiaggia fatta a ghiaino, in spiaggia quasi, e l'unica cosa di bello che c'era, che ti giravi dall'altra parte e vedevi le montagne, erano impossibili, perché io li ho girati tutti quanti lì, andavo fuori lì, e andavo un po' dappertutto, non costeggiavo tutto il Monte Bianco e niente. E diciamo che io praticamente non è che sono partito un pochettino così all'avventura, perché volevo vedere un po' come l'ha fatto una parte del mondo, diciamo così, perché sono stato in Corsica, poi da Corsica sono andato a Nizza, da Nizza sono salito in Belgio, dal Belgio sono andato in Olanda, e poi sono ritornato a Nizza, e poi da Nizza me ne sono venuto nuovamente qui in Sardegna. Però la spiaggia che ci abbiamo noi, il posto che ci abbiamo noi là, se ne sognano proprio. A Giunani di lì andiamo a Sandropì, andiamo a Erog, andiamo a Ghedà, arriva e da poi in Sardegna il posto è troppo bello e noi ci siamo troppo bene. E niente, me ne sono ritornato, però là lavoro ce n'era e c'era di tutto. Oh, stavo anche bene, perché l'ultimo lavoro che stavo facendo lì quando era lì, ero in un magazzino dove imbottigliavano vino e liquore. Ogni tanto mi pigliavo un po' di preghiera, potrei andare a fare i liquori. Io stavo benissimo, non ho perché c'è una cosa. Stavo lavorando lì, avevo fatto la richiesta, diciamo così, all'ente provinciale di lì. E io c'avevo, io qui non abitavo a Nizza, io abitavo a Cagnesumer, subito dopo San Lorenzo Var. E c'avevo il mare di fronte e sotto c'avevo la concessionaria della Renault via a Cruze Cagni. E stavo bene, avevo fatto la domanda, l'affitto era diciamo 400.000 lire, da. E la provincia ogni mese mi rimborsava i soldi dell'affitto di casa, praticamente è come che non pagassi affitto. E niente, stavo benissimo, tranquillo. E lo sai cos'è? Che qui è bello passare le vacanze, ma anche tra lavoro, sai? Una volta ce n'era di più lavoro, però se devo essere sincero, chi ha rovinato tutto è stato l'artigiano, perché l'artigiano purtroppo, specialmente nell'edilizia, è tutto appalto, subappalto, subappalto e subappalto. Allora, è così che i prezzi sono stratirati e non ce la fanno a pagarti assicurazione e cose così. è tutto praticamente nero, perché invece prima, tanti anni fa, era l'impresa che ti assumeva, sia i manovali che i muratori, e i gruisti, erano tutti quanti a conto dell'impresa, invece adesso sono tutti artigiani. L'impresa, vai, dice, quanto mi pigli per farmi questa satura? Tanto a mettere un cubo. Quando l'altro dice, no, io anziché amici di un posto di giusto, l'altro non lo faccio a 15. E così vanno sempre battendo i prezzi, poi alla fine non pagano gli operai, non pagano la sicurezza, non pagano niente. E adesso si può vedere in busciacca. Così stanno, sì. E ora che fai? Se non lo trovi subito, là. Io ti avrei trovato subito. Non bisogna mai disperare, bisogna avere sempre fede. Qualche cosa uscirà. Allora, io te lo auguro. Avanti, qua. Quando ci sono queste cose ne approfittano sempre, praticamente, e dai un dito ci sbigliano un bacio, in ogni luogo è così, in ogni luogo è così. Io praticamente quando sono arrivato all'Alghero mi hanno accettato naturalmente trasferimento, anche perché ero più vicino, eccetera eccetera, lì all'Alghero sono tutti miei, quindi quando magari non ho voglia di viaggiare, ne stavo lì, eccetera. Questo d'estate, tra l'altro, non viaggio più perché me ne sto lì, me ne vado un po' al mare e poi me ne rientro magari nel pomeriggio, quindi per tante comodità. Accettando il trasferimento, sapevo che dovevo fare un certo determinato lavoro, quindi seguirmi tutta la direzione dei lavori, tutte le cose, invece adesso dalla direzione dei lavori bisogna fare quello, c'è fare i bilanci indici, c'è da seguire quell'altro, e occuparti dei materiali, occuparti di quello, praticamente la genitale dell'ufficio attaccata alle stufe, ragazzi, mi gira il ballo e gli ho tutto il mazzano occupandomi di tutto, capito? Tutto il giorno così, inizio il lavoro, lo fanno bloccare perché c'è da iniziare un altro. sta iniziando quello, no, claro, forse è più urgente quello là, inizia a seguirmi quello, trova, molli lì. In una giga, desde così la mano non ha giocato manco una. Traffico, c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro. Cioè tu non puoi pigliare con una telefonata e spostare tutta la baracca a casa da un'altra parte, che magari poi devi fare anche 10 km o 15 km di strada per arrivarci. Quanto tempo perdi? Solo nell'assostamento perdi mezza giornata. Allora, tanto male che ti organizzi, fai un coso, dici ci vogliono tante persone, una chiamata all'ufficio collocamento, ce ne sono tante lì, ci servono 5 persone per fare questo lavoro. E quelle 5 persone fanno il lavoro, poi magari Claudio nel frattempo che lascia gli operai un attimo, può fare anche un salto lui a fare un controllo, perché piglia la vettura di servizio, piglia va e fa un controllo. Ma non che mi sposti tutta quanta la baracca da una parte all'altra dell'isola. Non va bene così. Lo so, ma sono così. Però anche per me, tu non lo sai, ma il mio lavoro è un lavoro che è collegato a Orari, lo stesso. Io li fornisco asili, fornisco alberghi, fornisco ristoranti. Se non c'era la quella da ora non te la vogliono più l'acqua, capito? Gli asili devo cucinare alle 11, alle 11 mangiano i bambini, quindi entro quella certa ora la vogliono la roba, ma è una fottitura, la voce della proprietà di non fare ancora un pezzo di spesa. E così è, così è per tutti. Ma ci sto dicendo un'altra volta che è successo. Avevamo appena la bocca tracciata in terra. Avevo moletta, stavo tracciando, ma ci sono conservatore. Ma per qua, per qui. Ha fatto due binati, ha fatto dopo il momento d'asfalto. C'erano i vigili che stavano praticamente perché. Telefonando. Portare, c'è il conservatore qui, sono preso, dove il momento che tu. Io sto per non accadere. Qua c'è il permesso, c'è il mio da comune, ma cosa dobbiamo fare? Ma vengo io capire, no che io. Ho morto tutto e me ne gioca bene. Se ne scelgo l'osservatore questo ragazzo. No, ma tra io mi sono rotto i coglioni, me ne sto andando, io la stessa cosa. Ma queste cose ci credono che io guido una bicicletta, cazzo di una terna che è lungo 8 metri. Comunque le scavate lo sposta, lo sappiamo benissimo. Ci vuole il camion con le cose per salire, tutto quanto, un casino. Non ci abbiamo eccezionale che abbiamo, non è che è un cingolato, capito? Lo portano da. Viene da Cagliari questo, con l'articolato e il cingolato sopra. Cioè, io ogni volta arrivato in un travaglio, questo sta tutta la settimana fuori, capito? Ho spesato di tutto, vai all'albergo a dormire, tutto, però mi ha detto ogni volta che arrivo in albergo, ecco, si accudisce un gavano muro perché non ce la fa più. Cioè, se stai facendo uno dei servizi, un lavoro è questo, ecco, devi fare questo, questa settimana sei impegnato per dire con Claudio, lascialo a me, è inutile che tu ogni mezz'ora, ogni ora a me mi chiami, mi serve lo scavatorista perché lo dobbiamo aprire lì. Ma come cazzo faccio a mandartelo con quel cavallo, ragazzi? Quella quando sta a caricare lo scavatore sopra il pianale, a mettere in moto il camion, a caricare aria, a fare tutto, cazzo il mezzodì, ma io ogni volta devo iniziare a lavorare a mezzogiorno, ma io mai ne sto andando a malvetta, allora che coglioni male. C'è ragione, perché poi si fa sempre tardi, e quello è il problema. E a pagare il ordinario da sempre più profissi, eh. Io ho ancora da recuperare le 4 ore di Natale, di notte di guasto. Io domani sera, domani mattina vado al lavoro, la macchina mia, lascio la macchina montagnese all'impianto, devo prendere il cilino, tornare a sassare col cilino, andare al gommista, mettere le gomme, fare la convergenza, poi secondo loro dovevo tornare ad Alghero, no? Alle 3, alle 4 di sera, tornare ad Alghero, portare il cilino perché serve la macchina domani sera e scendermi con la macchina mia. Questo è il mio responsabile, fa una cosa, adesso l'ordine me lo faccio io, diciamo l'ordine lo faccio io, domani me ne vado a pranzo con la mia macchina, mi faccio il rientro, nelle ore di rientro sistemo il fiorino, punto e basta. Ma ti serve, se ti va bene così, se non lo prendi tu, scegli a Sassari, ti cambi le gomme, fai un gatto che ti piace, l'hai diritto, basta che a me non mi rompe le palle, se no oggi sono rientrato, domani sono in malattia. Cosa ci vuoi fare? Adesso Meno male, Claudio, c'ha una certa responsabilità, c'ha già una direzione lavori dall'alto che lui deve fare quello, e a un certo punto può pure dire, non è te, io devo pagare, dice cosa vuoi, anzi ce la zecchi, a me, lasciami sa, io devo pagare, perché lui, meno male, se vuole, può puntare i piedi e dire, no, c'è questo qui da risolvere, e risolviamo questo qui, poi domani risolviamo quello là, cioè non ce n'è più importante o meno importante, perché a spostare una squadra poi non fai nulla né in un posto né nell'altro, così che volendo lì Claudio potrebbe pure portare i piedi e dire no, un momento, oramai se mi loghi, mi sovvigli, le pechizzo, mi chiedasso e andiamo avanti qui. Invece nel caso tuo Gianni, hanno ridotto il personale. Intanto io avevo manco che rovasi, non rovasi a mangiare, rovasi a sera, capito? La mattina in quelle determinate ore che deve servire gli alberghi, i ristoranti, la scuola, fa quello lì. La sera, tanto che rilassarsi, si è fatto per il magazzino. E questo te la muore in culo due voci. Perché purtroppo, con la scusa che c'è poco lavoro, ma non è che c'è poco lavoro, è che tutti quanti vogliono fare il doppio lavoro alle persone pagandone solo uno di stipendio, non due. E tu pensi che sia così? Ma l'altro giorno la giubilata bozzina di come si è trovato, sto aspettando che lo faccia io il lavoro a settimana finata, guarda che non c'è acqua, mi devi scaffare. Aspettate che ve lo faccia sempre, io ve l'ho fatto qualche volta, però anche voi siete stipendiati come se fosse stipendiato io, capito? Anni, mille anni di anni fa, te li vi fossi. Sì, perché sennò che non gli fai le voci. Molta gente si crede che lo stipendio sia gratuito. No, io adesso stamattina, cosa è successo? Sono andato, alle 8 meno 5 ero lì, è arrivato lui, bimbo ba, non ha aperto manco la porta del capannone. Mi raccomando, mi mettete tutto quanto a posto, bimbo ba, ti là. E mi ha sbagliato come se fa di... A Usamellai, siccome anche il figlio lì, lui è stipendiato, però con la scusa che il figlio non ti fa nulla. E va bene, è passata così. La mattina io ho caricato il camion, prima ho fatto tutto quanto il posto, perché domenica sono andati, hanno fatto un pochettino di macello, il figlio col cognato, ho messo tutte quante le pedane a posto, ho fatto lo spazio, mi sono pigliato la roba, caricato e mi sono fatto le consegne. Quando sono ritornata alla una, lui stava uscendo. Dicemi al figlio, Simone mi deve fare, su dice che sasso, vabbè, non faccio niente perché io, meno male, io il mio lavoro l'avevo già fatto alla grande. E niente, ritorno alla sera, e arriva lì. Il figlio, come ha sentito il rumore della macchina, si è messo il casco in testa e ci è uscito, non aveva fatto niente perché aveva telefonato. Gli amici sono venuti, gli amici in capannone, e si è passato la serata chiacchierando e non ha fatto nulla. Come è arrivato il padre? Ci aveva già il casco in testa e è partito al razzo. È stato un pochettino girando, facendo. Dice, ma i preventivi non me li ha fatti. Pim bum pam. Ce l'aveva contro il figlio. A un certo punto fa, ma la rientrea al zicco, cosa avete fatto? E ha detto, io nulla. Dice, cos'è, vi siete fatti compagnia? No, io ero una base e tu mi giuro i lavori compagni già potenti. Così che a me, cosa vuoi? Gira. Ed è andata così. Poi, sono venute le 6 e le ranghivi mi sento il tempo. Le 6:20 e nulla. Mi ha detto, ma com'è che avevo un appuntamento alle 6 dove si danca l'ufficio e passi? E invece sono le 6:30 e siamo ancora in occhi. Ma cosa si è messo in tenne? Ha sbagliato e ha detto, beh, ciao, mi ho mollato tutto e me ne sono andato. Ma oggi ci avevo talmente i coglioni girati solamente perché mi ha fatto dei rimproveri che non mi doveva fare a me, anche se vedo qualche cosa da aprire, devi aprire il coglione, chiudi la buccia, me la giri e non fate nulla. E da qui mi passo sempre io, una va bassa, passa benito. Sono venuto per darti una mano, te ne do due, va cosa vuoi. Io, ma poi se mi dai un po' il culo, mai che mi ne dà il culo. Io ho mollato tutto e me ne sono andato. Sì, vabbè. Che mi sta dando, io gli ho detto che glielo stavo facendo per fargli una cortesia, ma se mi faccio dei conti mi devo pure sigarette, la benzina che questo può fare ai chili e non mi avanza nulla, amico, cosa ti credi che sia? Cioè salire e scendere 4 volte al giorno in macchina, ma da poi mi cassi 30 euro, faccio il giro dei conti, un mese di 30 lire e devi trovare la polizia a da Manzano, così che non è che ci sia tutta quanta questa convenienza, se so che in casa non consumo gomme, non consumo olio, non consumo benzina, non consumo nulla, amico. Vabbè, ma da mangiare ci vuole, avanti, Franco, tu. Sì, mi sono trovato un attimino che stavo facendo una prova. Va bene. Andiamo. non mi dici che non mi dà un segnale. Non mi dici. Io non credo, non credo. Io anche non le 30, voi? Cosa vuoi ti dica? Cioè, è un casino, secondo me. Per esempio io dopo lavoravo, me ne sono andato, c'avevo una figlia e 600 gradi di affitto da pagare, eppure mai ci ho andato. E non è un lugar con il visto? No, sapevo quello che valevo. Dopo una settimana ho trovato lavoro. Avevi già qualche appoggio, va? E l'appoggio ce l'avevo sempre, le conoscenze. Le conoscenze già. C'è chi c'è da chi no. C'è chi c'è che è anni, che non lavora. Anni, come lì, 5 anni, 6 anni che cerca lavoro, non è troppo. Roger. Boh, è un casino. Comunque signori, io vi saluto, che giustamente vorrei andare a letto. Adesso faccio un attimino una spazzolata, perché devo provare questo apparato e poi bocca tu me ne vado a nanna. Buon proseguo, ciao già, buonanotte, ciao Mario, buonanotte, buon proseguo, ci sentiamo domani. Ciao, ciao, fra, ci sentiamo. Ciao, fra, buon riposo, buon tutto, mentre la riascoltiamo alle prossime. Roger, salutone a tutti, 10 gol in ascolto. Anch'io mi sono già a letto, sono già a letto, mi trovo, ma se mi ero a chi di Luca, se non lo so, così mi ero a fare lui. Ecco, paga, paga, se vuoi che ti ricordi. Provaci. Adesso chiudo lo stesso, perché tu giustamente non puoi manco modulare, perché lei per segnare la signora ai grigilli. E niente, cioè io ci provo lo stesso. Anche se sono incavolato nero, ma magari non dormo, ma dopo quando io ho un pacchetto di sigaretta, allora se devo avere un cigarro, però ci devo provare, però non credo, perché sono troppo incavolato. E anche me fa lo stesso. Non so, ma che va, abbiamo una ragione, sì, cosa devi fare. Tu sei tutti uguali, se ti basta, se hanno qualche cosa, capito? Ma quello che faccio nella famiglia, nessuno che dà la mia cosa che ho preso di me, basta. Ecco, io nella mia vita mi ho mandato molto meglio a cagare, capito? Perché io ho mandato anche a casa a cagare quando lavoravo all'Aico. Così che a giuria devo un maschio guardino, a giuria devo un bel di niente, però non me ne frega niente. Sempre testa alta, capito? Anche non devo andare nessuno. Non c'è più l'Aico, sì che c'è l'Aico, solo che non è più lì a Carlo, è di un'altra ditta ora. Ecco, è sotto l'altro nome, mi pare che sia. Il nome è rimasto lo stesso, sempre per fabbrica di Aico, però non è più, non c'è più a Carlo. Di Vincenzo, Vincenzino. Ma Vincenzo mi sembra che lavorava nell'officina tanti anni fa. Se è lo stesso Vincenzo che sto dicendo io, Centino, Centino. Perché io c'ero quando c'era l'Alfa Romeo sulla strada di Alghero, che era sempre il dottor Accardo. Niente, e poi c'aveva l'altro stabilimento giù a Porto Torres. Io ti sto parlando nel periodo che aveva fatto l'aeroporto di Urbia. E allora si lavorava, Cappagatto, non so. Ah, sì, si lascia pensione, non mia. Sì, pensione, una minima, cioè perché sempre lavorato in meno, poveraccio. E ogni tanto si fa qualche lavoretto, come muratore, via, carpentiere, anzi lui. Cappagatto. Sì, lavorava in officina, era, facevano le strasse e le cose, là. E più che altro erano ferraiuli, ma lì non venivano chiamati ferraiuli, venivano chiamati da meccanici che lavoravano con le macchine a piegare il ferro, facevano le tappe per quei tranni che mettono sui per fare i punti là. Ho capito. Non lo so, cosa altro, so che una volta non mi ripulsi Vincenzo, una volta a cercarmi, era provato in mille luoghi, caso, da poco era in Corsica, e qui è tornato, ogni tanto riparte, sta sempre andando avanti e indietro, ho detto non lavoro qua. Beh, purtroppo noi disgraziati siamo così già. Devi andare dove c'è lavoro a un certo punto. Io fino adesso ho resistito perché, sai com'è, a mio figlio non lo posso chiudere un istituto e vederlo ogni 6 mesi, no? A me mi avevano proposto pure di andare a cosa, a Ravenna, come metalmeccanico e niente. Non ci sono andate pure, mi pagavano 25 euro l'ora, non è che mi pagavano poco. E non ci sono andato per mio figlio. Ah, beh, ci credo. E qui si mi ha fatto la birra qua, c'è la ragazza, come che non hai fatto nulla? Sì, capo, ma non è solo quello, è che io qui ho la casa, ho la casa già arredata praticamente. E così che lui è già grandetto, oramai c'ha le sue amicizie, c'ha la sua scuola, c'ha le sue cose. Come cazzo faccio a mollare tutto e andarmi nel continente? Ma forse qui mi con una mano da lì, c'è la amici e così il continente cosa vuoi? Non ti conosce nessuno? In campo no, già ne conosco gente anche in continente, poi le amicizie si fanno sempre, solamente che per noi grandi è una cosa, per i bambini è ricominciare tutto quanto da capo, è tutto un casino. È brutto così, eh. Io avevo un zio che era in Australia, no? E aveva le figlie grandi, già 19 anni, aveva un ragazzo là, tutto quanto là. Lui a Pesaro ha deciso di partire dall'Australia, da Sydney, è venuto qui, si è aperto un bar dietro le carceri. Ma dice che questo bar era come loro, più lavorava più facile i soldi. E solo che poi non so cosa è successo, si è stufato e si è dovuto ripartire da Australia. Quindi le figlie avevano ragazzo là, si sono mollate, se l'ho fatto da ragazzo qua, se l'ho fatto da amicizia qua, dopo che c'erano 6 o 7 anni, ha preso il babbo, torna il giga. Cioè, dimmi se è una cosa giusta. Vabbè. Cosa fai? Io lavoro e vai a rubare, le cose sono due, già, non c'è poco da discutere. Cioè, i figli devono anche capire un po' quei genitori, perché giustamente se tu non hai lavoro qui, che ti capita il lavoro fuori, che cosa fai? Paghi i tuoi affitti, devi mandare su di tuoi bambini, quello, quell'altro, e tu cosa fai? Allora si porta tutta la famiglia, quello che si guadagna, e si conserva, si mette da parte, si fa. E purtroppo la vita è così, Non è che uno dice, ma io sto qui, sto bene, però per noi che diciamo che lavoriamo così, non è detto che sia sempre bello. Guarda, questo faccio le studio a parlare, perché me l'ha detto la FIPA. Ha detto che se lui stava di notte aperto, lavorava tutta la notte, perché ha sempre pieno di gente. Questa è la musica, questa è quella, c'è sempre gente, questo è pieno, o piede, questa è quella. Non ricordo se è stufato lui, perché forse perché si lavorava troppo, ma insomma non ha più sopportato il ritmo. Forse sai com'è, quando uno è avanti con gli anni poi non ce la fa più. Io molte volte capita che vado lì al bar di Coso, come si chiama, quello che c'è al mercato all'ingrosso, però quello che c'è sulla strada per i punti. Ma ho capito, ma non vado mai io lì, ho capito quale, dove vanno tutti qui nel mercato. Sì, ce ne sono due, uno da una parte e uno dall'altra. E io andavo quello che c'è per la strada nuova che hanno fatto per i punti. Vado lì e c'è un uomo che è molto avanti con gli anni e fa l'apertura, però a quell'ora se ne deve andare perché poi non ce la fa più, capito? Ed è un bar che lavora tutto il giorno. Ecco, ci credo, fino alla presto. che la Catalina si accorge e sarà a fare colazione. Scappa, alle 4:30 è già aperto. Io ti grido, lui a metà mattina si è fatto già le sue ore. Lui quando arriva alle 8 è già stanco. Fare caffè, fare quello, fare l'altro, parte, sigarette, quello, quell'altro, corri da una parte, corri dall'altra. E a una certa ora poi è stanco. Sì. Guarda che sono due di ore. Tutto di fila, poi da mattina presto, non è facile. Comunque, tutti fanno, io invece ho un amico che sono invece al Ciso che sta all'entrata e sta il camion, che li controlla l'entrata. E a volte si fa anche la notte. Perché quelli che molte volte arriva l'articolato da Urbe o da Cagliari e devono scaricare, chiamano il gruppo, io voglio caricare un camion, magari da voi a prestare su in zona S45 e fanno tutta la nottata scaricando. Ma cosa c'è qualche carovana all'interno? No, no. Allora, perché non c'è niente mai di sicuro, a volte ne arrivano 4-5 di tiri, è come quando è il periodo dei meloni, e stanno tutta la notte scaricando meloni, che arrivano articolati pieni. Lo so, è dura di ammarcato. È dura sì. Va bene, state non tanto perché fa caldo e va bene, sì, al fresco, lavorando e niente. Ma d'inverno che cosa fai? State tutta la notte fuori casa, magari vedevo, vede freddo, ruia. Sì, ma tu sei andato per la Zimbia, però. Mi metti per la Zimbia. Già lo so, io avevo due amici che lavoravano lì al mercato, davvero, e quando capitano le angurie che le arrivano lo stesso gli articolati pieni, è un bel casino anche quello. Vabbè che adesso c'è già le bis. Cosa? Adesso arrivano con le bis. Cioè con quelle stesse plastica. Ah, è anche in legno. Io li metto molto con le stesse plastica e quando arrivano gli articolati ne hanno due, una sopra l'altra, per tutto il lungo del cassone. Ma ci sono anche quelle in legno. A noi ci sono arrivate anche quelle in legno, che non durano un capo, si spaccano subito, ma poi si spaccano quando vanno a prendere il commento viene fare tutto. Già, però quelle plastiche sono più sicure. Allora, quelle pratiche che ho visto io lì al mercato soprattutto sono quella plastica dura, sono grandi e niente. Poi ho visto anche le melunga qui in Cesselli lì. Sì, perché le fortuna c'è così, le scarichiamo con molestia e le mettiamo direttamente nei gruppi, per finta manco mi tocchiamo. Ah, ecco, pagato. Vedete, è così, già. Luia, ma... E cosa ci puoi fare? Purtroppo ha un po' valore in fine. Arrivo, almeno mi sento se qualcuno del lavoro un po' di gente che ne ha bisogno. Ma guarda, anche, non lo so. Adesso, vabbè, domani, tanto non sto lavorando, mi faccio il giro e poi mi avvicino eventualmente da Vanni. E vedo un poco se sentono qualcosa, vedo se c'è qualcosa in giro, perché non lo so se il fuoco delle vanne è sempre nella carovana. E tu andare da Uggiano, che provo a lavorare più lì, cercano autisti solitamente, gente che si lavora perché si lavora, però si appaga. Ma non me ne frega, io tanto lavorare devo lavorare. A me quando mi dà lo stipendio è che mi dà i miei diritti, mi va bene. Non che se lui ce ne va in fine, che se ti sei attaccato da un gruppo. Quindi sono sempre la fine, in estate, d'inverno, a Natale, se non si fanno le vacanze. cose in America, Urano, tutte le parti. Capo, però tu non puoi andare da nessuna parte perché non te ne paga neanche i fedi. Quest'estate, quando è andato in Figlia, ha detto, beh, noi siamo andati in Figlia, mi ciao, mi ci vediamo. Però vado se ne è andato pure di là in Figlia, e tu gli devi attaccare un blocco, gli devi arrangiare. Ma che la sono stati in Figlia, lui sì. Beh, se è chiuso per Figlia, è chiuso per Figlia. Però lui le Figlie se le fa, e tu no, tu non hai diritto di farti le Figlia. No, no, da noi non è così. Da noi di fede ce l'hanno 30 giorni. Quindi ci decidiamo noi e quindi ci decidono. Punto. Certo, ma c'è già un accordo. È vero, è già un accordo. Invece lui no, quest'estate mi ha detto, beh, io sono alle fine, ciao, ci vediamo a settembre. Mi poteva dire, no, questi sono i soldi per le fedi, invece non c'è. Miserabile, avevo cascito che sono andata. Ehi, ma non me ne fregava niente, perché io ero lì per dargli una mano, però adesso non è più una mano, adesso vuole tutte e due le mani, e se ti fidi vuole pure il culo, ma adesso è quello. Adesso c'è la trattoria, se no. Cazzo, da un dito si è abbigliato un braccio, da un braccio cazzo si è abbigliato tutto, cazzo, e adesso gira, si ruggerà così, ma mai si mi dà il culo. Caffè, Mario, ti saluto che sono disturbo, ci sentiamo, buonanotte, non ci pensa le donne, attimo. Sperando che stai meglio anche, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.